sulla base anche del lavoro di richiesta che noi come OBO abbiamo portato avanti, diciamo cercando di mettere in luce quelle che possono essere le evidenti diciamo, motivazioni strutturali, ma anche le contraddizioni del progetto Staveco, e ovviamente andrò in modo molto schematico, perché ovviamente gli aspetti da approfondire sarebbero in realtà parecchi. E soprattutto appunto la ZAGO avrebbe potuto darci un contributo fondamentale per quanto riguarda forse dati più tecnici e interni anche all'amministrazione universitaria, ma comunque mi diceva al telefono prima quando l'ho sentita che lei e la CUB proporranno un'interrogazione al Senato sulla questione, quindi sicuramente insomma organizzeremo un altro dibattito nel quale potremo anche avere la sua presenza. Vabbè, sappiamo tutti cos'è Staveco, sostanzialmente è un'ex area che per 150 anni fino alla Seconda Guerra Mondiale era stata adibita a uso militare, e nel 2012 sulla base di un accordo tra comune e università, che di fatto sembra essere un accordo tra Virginio Merola e Dionisi, quest'area è stata appunto passata dal comune all'università, di modo che l'università appunto potesse attivare questo progetto di valorizzazione di un'area dismessa sostanzialmente. Io mi sono concentrata su tre aspetti. Il primo aspetto è forse quello un po' più complesso, che meriterebbe di essere approfondito in modo un po' più complesso, e sostanzialmente come avevamo scritto sul documento si tratta di capire se il progetto Staveco trova le sue motivazioni strutturali in quella che è una ricercatrice torinese, Simona De Simoni, la quale si occupa appunto di ricerca nell'ambito delle relazioni tra spazi, politica e capitalismo fondamentalmente, se il progetto Staveco può rientrare in quella che lei ha chiamato la cosiddetta urbanizzazione del capitale, dove appunto per urbanizzazione del capitale si intende appunto il fatto di rendere la metropoli, in generale la metropoli, poi ovviamente tutte le varie specificità, il luogo in cui si attua la tensione tra austerity e crescita da una parte, e in cui sostanzialmente si pone in essere la cosiddetta economia della rendita, della speculazione, della messa a valore dei suoli, con tutto quello che ne consegue ovviamente, ossia lo sfruttamento delle forme di vita, la precarizzazione, la criminalizzazione della povertà, eccetera, eccetera. E quindi sostanzialmente uno scenario in cui gli spazi in particolari, ma la metropoli in generale, diventa urbanizzata per così dire dal capitale, nel senso che gli interessi che muovono l'urbanizzazione non sono gli interessi di coloro che attraversano la metropoli e quindi i soggetti produttivi della metropoli, ma appunto gli interessi saranno quelli evidentemente della speculazione e della rendita. In questo contesto, perché è importante appunto questo aspetto? Perché nel libricino che abbiamo analizzato, che tra l'altro per chi è interessato si trova in sala borsa, questo libricino che è praticamente la presentazione del progetto Staveco di editore compositori, una cosa del genere. Praticamente c'è tutta nell'introduzione, Dionisi manifesta il suo entusiasmo affermando che questa è stata una grande occasione per l'Unibo, perché l'Unibo è la prima impresa dell'Emilia Romagna. Già capiamo quindi diciamo, il soggetto Unibo come si presenta, come un'impresa, che di fatto è un'azienda appunto, e quindi qual è il ruolo sostanzialmente di questo soggetto, che è un soggetto economico nell'ambito dell'urbanizzazione del capitale. Il secondo aspetto, che è appunto una questione più tecnica ma certamente legata al primo aspetto sul quale Antonella Zagor avrebbe forse approfondito maggiormente, quello dei costi, del finanziamento di quest'opera, di questo progetto. Sostanzialmente, come dicevo prima, in base all'accordo stipulato tra Comune e Università, l'Università di Bologna sarà sostanzialmente la stazione appaltante del progetto Staveco, che significa che sarà il soggetto che dovrà farsi carico degli oneri, insomma, dovrà farsi carico con proprie risorse o con altre risorse dei costi per il recupero dell'area. E appunto noi ci siamo chiesti, quando ancora non si sapeva nulla fondamentalmente, ma appunto come sosterrà l'università questi costi, visto che questo progetto Staveco, che è stato presentato come sostanzialmente un mega progetto, un mega polo universitario, e subito sono arrivate appunto le risposte. Come tutti sappiamo, l'università svenderà una parte del suo patrimonio, che è bene evidenziare. Da una parte appunto non è stata presa in considerazione la componente soggettiva che vive l'università, studenti, lavoratori, docenti e così via, che sono i soggetti che attraversano i luoghi dell'università, ma soprattutto sono i soggetti che pagano questo patrimonio immobiliare, in quanto appunto si tratta di patrimonio pubblico. Quindi c'è stato un doppio bypassare, ecco, questo importante il fatto che a questi soggetti spettava anche, no, poter decidere su questi spazi. Quindi appunto svendere il patrimonio, una parte del patrimonio, e a chi venderlo? Perché ovviamente il soggetto che compra deve poterselo permettere, in un certo senso. E su Repubblica recentemente era uscita questa notizia per cui l'università sembrava essere uscita dall'incubo del non trovare gli acquirenti, e sembra che poi, a quanto pare, sono tutte ipotesi, che questo acquirente dovrebbe essere, che ha manifestato l'interesse ad acquistare, dovrebbe essere una società gestita totalmente dal Ministero delle Finanze e dell'Economia, l'Invimit, se non sbaglio, il cui ruolo sostanzialmente è quello di fare da cerniera tra i soggetti pubblici e il mercato. I soggetti pubblici che ovviamente hanno in proprietà ingenti patrimoni immobiliari e il mercato. E quindi sostanzialmente quello che ci troviamo di fronte sarebbe un ulteriore passaggio speculativo, nel senso che in quale mercato? Il mercato della rendita e della speculazione sostanzialmente. Il terzo aspetto invece su cui ci siamo soffermati, che è probabilmente quello che ci tocca forse più da vicino, è quello di, diciamo, che tipo di modello di università si prospetta con questo nuovo polo Staveco. E qui anche sul libricino che dicevo prima c'era tutta una storia del modello universitario da un punto di vista architettonico, che poi sfociava anche, il modello architettonico cosa significa da un punto di vista, direi, filosofico, ma non solo. Lì faceva tutta la storia di modello di università centralizzato, quindi accentrato, decentrato, eccetera, eccetera. E qui, in questo terzo aspetto, poi volevo porre anche la questione al professor Matteucci, cioè cosa significa oggi decentrare l'università, cioè qual è il significato nell'attuale contesto. A noi pare che tutto ciò indichi una cosa ben precisa, cioè Dionigi afferma che il progetto Staveco è una sfida per il bene comune, ma noi ci siamo chiesti che cosa intenda Dionigi quando parla di sfida per il bene comune e quando parla di un sogno che potrebbe realizzarsi. Ovviamente Dionigi ha dimenticato di far riferimento a tutto ciò che di materiale c'è dietro un ipotetico bene comune, cioè il problema del reddito, della salute, della formazione che non sia gratuita e tutto il resto. E se dietro a questa, diciamo a questo, questo voler proporre questo nuovo modello decentrato, questo polo universitario, non ci sia anche un tentativo di normalizzare quelle esigenze a cui Dionigi non ha dato assolutamente voce. E quindi per concludere dico che diciamo, secondo noi queste discussioni, questi dibattiti, questi approfondimenti, queste inchieste non devono rappresentare una resistenza diciamo che si limiti alla seppur indispensabile diciamo, critica della valorizzazione tout court, ma si deve trattare di una resistenza che affermi una libertà e di una resistenza riappropriatrice. In che senso? Nel senso che noi resistiamo, ma perché? Perché vogliamo affermare la nostra libertà di poter ripensare l'urbano a seconda di chi l'urbano lo vive, quindi delle soggettività che si relazionano all'interno dell'urbano, che hanno determinati desideri, bisogni, eccetera, eccetera, e dall'altra parte di una resistenza riappropriativa, di riappropriazione, cioè di tutto ciò che fondamentalmente ci viene espropriato, il tempo, i luoghi, gli spazi, il reddito, eccetera, eccetera. E quindi in ultimo, cioè per ultimo ma non meno importante, appunto il modello di università che immaginiamo è un modello sostanzialmente un modello di autonomia e di auto-organizzazione, ma non nel semplice senso di autogestire gli spazi. Quello che pretendiamo non è la semplice autogestione degli spazi, ma è appunto la possibilità di poterli modificare, questi spazi, trasformarli a seconda appunto di esigenze, desideri che non siano gli interessi della rendita e della speculazione sostanzialmente. Quindi detto questo lascio la parola ad Alessandro che ci fa una cornice un po', ci introduce il discorso in base anche alle, diciamo, alle inchieste e lavori che hanno svolto loro come Città Fusico, e poi lascio la parola a Matteuzzi che insomma potrà rispondere alla mia domanda ma anche dirci quello che pensi. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio, grazie per averci dato la possibilità insomma, di esprimerci non soltanto come diciamo, posizione personale, ma insomma, come radio e organo di informazione che tenta di essere indipendente, autonomo, che vuole raccontare quella che è stata la vicenda Stavego, quella che continua a essere la vicenda Stavego e che nella narrazione che non si riduce naturalmente alla mera cronaca, provo un attimo a ricostruire alcuni passaggi e intrecci politici che si cristallizzano e partono dalla questione Stavego stessa. Partirei con qualche dato, così diciamo che la parte noiosa ce la risolviamo in fretta, anche perché magari provo, diciamo, senza ergermi a livello... Però provo insomma un attimo a supplire a quello che avrebbe potuto dire, ovviamente allargando il discorso, Antonio Lazzaro. Il passaggio della struttura dello stabilimento da Palazzo d'Accursio all'università è stato siglato praticamente con un accordo del dicembre 2012, lo ha anticipato Veronica, e ha praticamente immediatamente stabilito quali fossero diciamo, i crismi e i caratteri dell'operazione. Un'operazione che coinvolge 9 immobili e che nel fluttuare dei dati e delle cifre dovrebbe in prima istanza fruttare alle casse del Mamater una 70 di milioni di euro, milione più, milione meno, fermo restando che comunque l'Alma Mater dovrà sborsare una cifra pari a circa 100 milioni di euro, e non si capisce in questa partita di cifre e di numeri se l'Alma Mater otterrà un guadagno o meno, e se l'Alma Mater dovrà affrontare delle spese di 30 milioni o più o meno. Quello che rileva dal nostro punto di vista su questo piano qua è che sul discorso delle cifre, che non è la cifra del discorso, resta da capire in termini di trasparenza e anche di, visto che è Stavego per chi, quindi chi decide, quindi anche a chi vanno questi soldi, in che maniera, se ci dovessero essere gli introiti, potranno essere spesi, visto che siamo nella città della mensa più cara d'Italia, delle borse di studio tagliate come in molte altre città italiane, come in tutte le altre città italiane, anche in virtù del fatto che il rettore Dionigi si è prontamente preoccupato di far propria la riforma Gelmini, salvo poi tornare sui suoi passi con piagnistei vari ed eventuali. Piagnistei vari ed eventuali di cui l'azienda Stavego e l'operazione Stavego altro non rappresenta che uno dei passaggi. Quindi su questo rimane da capire se ci dovessero essere gli introiti, come verranno spesi. Anche in considerazione del fatto che, come diceva anche lo stesso Loris Narda in un'intervista alla radio, c'è una situazione molto critica che è quella dei ricercatori, che è quella dei contrattisti a ricerca, a progetto, eccetera. L'operazione è un'operazione interessante da un punto di vista anche urbanistico, e questo poi mi darà il là per passare insomma, alla rassegna di un altro piano del discorso, che è quella del diritto alla città e agli spazi della città. È un'operazione che su un piano spazio-temporale si dipana in termini quanto più ampi possibili, nel senso che ci saranno delle strutture, correggetemi se sbaglio, coinvolte anche a Lozzano, che non riguarderà precipuamente il centro, quindi la zona universitaria di Bologna, ma non soltanto la zona universitaria di Bologna, penso per esempio ai prati di Caprara. E a proposito dei prati di Caprara, i prati di Caprara saranno l'ultima, diciamo, cornice attorno alla quale o sulla quale si giocherà la partita Stavego, perché da un punto di vista temporale parrebbe, ovviamente il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla di Dionigi e Merola, che i prati di Caprara, il progetto sui prati di Caprara di un grande parco con annessa una struttura scolastico o di anche alloggio degli studenti, la scadenza prevista per i prati di Caprara è compresa tra i 10 e i 20 anni, mentre l'inizio dei lavori dovrebbe essere compresa tra i 6 mesi e un anno, più verosimilmente un anno. Comunque anche 2 anni per quello che emerge alla stampa, però insomma tutto è molto fumoso, tutto è molto vago, ma si capisce bene che un accordo che è già stato firmato e che prevede che possano intercorrere anche 20 anni dalla conclusione, diciamo, propria di tutto il progetto, insomma è un'operazione che richiederà anche in termini temporali un grosso dispendio di energie, di forze, di pazienza e di ovviamente denaro. I soggetti coinvolti, e su questo c'è un po' più di chiarezza, sono naturalmente il Comune, naturalmente l'Alma Mater, vedremo come, Indimit SGR, commissario, luogotenente, diciamo così, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che quindi insomma rappresenta fondamentalmente Roma a Bologna, e l'Agenzia del Demanio. Questo ci dà il là per introdurre insomma la prima questione, che è fondamentalmente legata anche al nome dell'università stessa, cioè Stavego per chi? E allora cerchiamo di capire chi decide in università, chi decide in città, chi sono i soggetti coinvolti e soprattutto se chi decide è certamente insomma corrispondente ai soggetti a cui la decisione, su cui poi la decisione ricade. Chi decide? La prima questione è Dionigi. Secondo Dionigi, in un'intervista non per diciamo autosponsorizzazione o altro, però insomma mi interessa riportare all'attenzione di tutti, prima di tutto alla mia, alcune diciamo, dichiarazioni che sono state fatte sia da Dionigi che da Merola che da altri, probabilmente a caldo, ma sicuramente insomma rivelatrici di una certa atmosfera. Dionigi ha sostenuto il 3 marzo, data la sigla dell'accordo, destinare l'area Stavego, l'intenzione dell'Università e del Comune è quella di destinare l'area Stavego alle prerogative e ai diritti degli studenti. Che gli studenti fossero coinvolti è chiaro, trattandosi di università, di un piano di dismissione di immobili universitari. Quello che non si capisce è in che modo queste prerogative e questi diritti degli studenti possano essere salvaguardati, potenziati o rispettati in qualche maniera, visto che gli studenti su questa questione non hanno messo assolutamente voce in capitolo, non sono stati in alcun modo sentiti, neanche in maniera diciamo non diciamo neanche in maniera laterale o altro. Gli studenti non sono stati minimamente considerati per lo sviluppo dell'operazione stessa. E visto che siamo nella città di Dionigi e di Merola, ci chiediamo anche, come dicevo prima, dove andranno a finire questi introiti, e visto diciamo, un processo di generale impoverimento sia dei diritti sociali, sarebbe meglio dire di messa a valore dei diritti e quindi anche dei diritti sociali. Bisognerebbe capire se ci saranno degli introiti, lo ripeto perché credo sia importante, in che modo verranno spesi, se c'è una strategia e se non c'è, capire se verrà in qualche modo elaborata, una strategia per capire in che modo spendere o investire questo tipo di introiti. Questo ovviamente il discorso dei soggetti che decidono e su chi si decide non riguarda solo unicamente l'università, perché anche al comune, anche a Palazzo d'Accursio, le delibere che sono state, insomma, che hanno reso possibile lo sviluppo dell'operazione sono state delibere di giunta che non hanno avuto, diciamo, l'obbligo di sentire il consiglio e che quindi sono andati in qualche modo per la sua strada. Con questo non intendo dire naturalmente che coinvolgendo il consiglio saremmo stati in un contesto di perfetta democrazia e trasparenza, però ci si sarebbe aspettati che un po' più di coinvolgimento anche interno alle istituzioni ci fosse. E invece no, il treno doveva andare avanti ed evidentemente lo ha fatto. La seconda questione che introduce l'operazione tutta ovviamente è cosa succede in città, o per meglio dire cosa succederà in città, visto che Bologna, diciamo, è percorso da cambiamenti non architettonici ma urbani, no? E quindi, diciamo, di portata più ampia, che sono sotto gli occhi di tutti. Io penso al cantierone, che non è un problema di solo un problema di commercianti che si lamentano. Penso anche a tutta la discussione ancora in fieri sul passante nord, penso a tutti i progetti che anche in questo caso non riguardano solo Bologna ma riguardano, insomma, buona parte dell'Occidente e non solo, che sono i processi di gentrificazione di cui la bolognina è esempio lampante, con trilogie native che cominciano, si fermano, con rotonde che diminuiscono la loro, diciamo, dimensione improvvisamente. Ovviamente la questione riguarda XM, però non solo XM, comunque questo per dire che il progetto Stavego è un progetto che in prima istanza, in una prima battuta, su un piano molto sensibile o estremamente sensibile, potrebbe sembrare un piano di dismissione di immobili che riguarda l'università, cioè un progetto intrinseco all'università che nasce all'università e rimane in università. Non rimane in università, è un progetto che parte dal cuore pulsante dell'università, e questo lo stesso Dionigi l'ha detto, accompagnato a stretto giro da Merola. Trasformare la città partendo dal suo cuore pulsante, partendo dalla testa della città che è l'università. In questo progetto, in questo processo che riguarda anche la città, bisogna capire adesso che c'è una messa a valore di diritti, come dicevo prima, bisogna interrogarsi, indagare questa messa a valore di diritti, che è una messa a valore di diritti molto più ampia, che già si sta esercitando su piani diversi, penso per esempio quello del diritto all'abitare, penso per esempio quello della, cioè, penso al piano della ridefinizione del modello ISE, che mette a valore i diritti che, come quello della borsa di studio, per esempio, no? O introiti derivanti da non dalla voce, non soldi in entrata, ma sostanzialmente sussidi che rendono possibile l'esercizio di quel barlume di diritti sociali che è rimasto. In questo contesto ovviamente la vicenda Stavego, l'operazione Stavego si inserisce in maniera perfettamente coerente, perché attraverso una riformulazione dell'urbanistica universitaria si riformula tutta l'urbanistica urbana bolognese. Ed è interessante notare che, come dicevi giustamente prima tu, Veronica, la prima impresa dell'Emilia Romagna, cioè che si parta su un piano di ridefinizione urbana proprio a partire dalla prima impresa dell'Emilia Romagna, o da quella che si presume essere o che si vuole essere nel più breve tempo possibile la prima impresa dell'Emilia Romagna. Questo per dire che cosa? In questa messa a valore dei diritti, ovviamente, che già si era messa in moto molto tempo prima con tutta una serie di processi di precarizzazione anche interni all'università, non solo riguardanti i lavoratori ma anche riguardanti gli studenti, il tentativo, voluto o meno, decidete voi, naturalmente io ho una mia idea, il tentativo che si opera attraverso l'operazione Stavego è il tentativo di messa a valore del diritto agli spazi della città, per cui gli spazi della città si dislocano, si spalmano anche da un punto di vista, come dicevo prima, temporale, perdono la loro definizione, una loro connotazione propria. Probabilmente il professor Matteuzzi su questo piano vi saprà dire molto meglio che io, molto meglio che me. e da questo piano si esercita poi in qualche modo una ridefinizione anche del ruolo sociale, non solo dello studente, ma del cittadino, del soggetto, della persona. Cioè l'azione che si porta avanti con questa operazione è un'azione veramente di ampio respiro, che non è strettamente universitaria, che è urbana, che è cittadina e che è destinata, credo, insomma, a propagare le proprie conseguenze, i propri effetti ben oltre il piano degli studenti e ben oltre, diciamo, il perimetro urbano cui la si vuole, almeno, diciamo, da un punto di vista da un punto di vista di propaganda circoscrivere. E su questo piano io vi porterei anche le testimonianze diciamo dirette, no? Che sono state rese in alcune interviste sia da Merola che da Roberto Reggi, che è il direttore dell'Agenzia del Demanio, che in dichiarazioni un po' fumose, però credo comunque molto dal valore simbolico molto alto, hanno precisato, prima Roberto Reggi, che l'attuazione del programma, che l'operazione Starego altro non è che l'attuazione del programma di valorizzazione urbana di immobili statali. Cioè sulla dichiarazione c'è già tutto, perché c'è una valorizzazione urbana di immobili statali. Ovviamente la valorizzazione urbana di immobili statali significa che un immobile statale destinato ad un uso passa logicamente ad un altro uso, cioè ne mantiene uno proprio e ne assume uno simbolico di portata diversa, estremamente più larga. La seconda testimonianza che vi porto è quella di Merola, che ha dichiarato: tra 5 anni ci verrà consegnata una città profondamente rigenerata. Non si capisce rigenerata in che cosa e rigenerata come. Sicuramente rileva da questa dichiarazione che un cambiamento ci sarà e sarà profondamente diciamo sensibile. E la rigenerazione naturalmente posterior alla sentenza, qui si sta cercando di tirare un po' le fila e di prevedere quello che è un futuro, crediamo, abbastanza prevedibile, però insomma anche sul piano di chi questa operazione la vuole e la porta avanti, un riconoscimento di questo tipo c'è. Naturalmente i diritti di valore sono estremamente diversi, però che un cambiamento molto ampio della città e non strettamente legato all'università ci sarà, è riconosciuto anche da loro. E quindi Stavego non è università, Stavego è Bologna, Stavego è anche un laboratorio, visto che, se non sbaglio, si tratta della prima operazione di questo genere in Italia. È un laboratorio veramente di grande respiro, veramente di ampio respiro, vedremo dove ci porterà. La terza e ultima questione che vorrei insomma condividere, la terza e ultima riflessione che vorrei condividere con voi, si installa su un piano più politico del discorso politico di chi questa operazione la porta avanti, e, in maniera più propria del sindaco Merola e di Dionigi. Entrambi sono a fine mandato, il sindaco Merola è diciamo alla fine di un percorso di medio termine, perché verosimilmente correrà per le prossime elezioni amministrative, il rettore Dionigi non potrà correre più. Però insomma da entrambe le parti l'entusiasmo testimoniato in merito all'operazione rileva che effettivamente c'è l'operazione sta completamente abbracciata dai soggetti in gioco. Non c'è nessuna venatura di critica, non c'è l'apertura di nessuno spazio di possibili problemi, neanche eventuali. L'entusiasmo è fortissimo e per entrambi in maniera abbastanza chiara l'operazione Stavego è un'operazione che ricadrà nell'acido politico di Dionigi, ovviamente, e di Merola. Per Merola non l'acido politico, che è un mezzo acido politico perché potrà continuare, per Dionigi, un lascito che è fondamentalmente l'imprinting del suo mandato, del suo ultimo mandato, è l'elemento caratterizzante, no? della sua amministrazione dell'università. È interessante notare che su piani estremamente critici, come può essere l'operazione Stavego, ma anche su tanti altri, aziendalizzazione dell'università, ovviamente l'unione di fronte è completa, è totale, indiscutibile, non c'è nessun tipo di problema, non c'è nessuna inclinatura di un patto non scritto né altro, ma c'è un accordo assoluto, una coincidenza di vedute assoluta. È quello che rileva, che ancora una volta anche sulla questione Stavego, in particolare sulla questione Stavego, università e comune sono finalmente uniti nella lotta, ancora una volta lo rileviamo, e senza che da nessuna delle parti in gioco, insomma in partita, emerga neanche il barlume di un qualche ripensamento. Ora nessuno pretende che si torni sui propri passi, ma quantomeno logicamente e coerentemente con l'andamento pratico delle cose, cercare di capire se ci possono essere gli spazi di criticità per l'operazione. Io mi fermerei qua e lascerei lo spazio al professor Matteucci. Ma dunque, grazie di avermi invitato. Io, come dire, alcune cose sono già state dette, anzi la maggior parte, qualcuna non l'ho capita. Per esempio Alessandro ha parlato due volte di introiti possibili, no? Ecco, se non ho capito male, perché qui bisogna andare un po' a gomme di naso, nel senso che non tutto è... c'è scarsissima trasparenza su questa operazione, no? Premessa numero uno. Ma a quello che ho letto io, in realtà c'è un esborso, e anche non banale, perché i conti che fa circolare appunto Dionigi, ma che sono anche sul sito del comune, voi trovate l'accordo firmato a 4 tra De Mani, comune, il fondo del tesoro, che non mi ricordo mai come sia, Universitas o quale, e l'università. Ora, i conti di Dionigi sono questi: io devo costruire per 100 milioni, 80 milioni li realizzo vendendo degli immobili, altri 20 milioni riesco a farmeli dare dal MIUR. Ora, di pancia, a me viene in mente la barzelletta del generale Custer, no? Non so se la conoscete, che manda un soldato a dire: dimmi quanti sono gli indiani. E allora questo soldato torna e dice: sono 5.200. Ah, però, poi faccio, ma come fai a essere così preciso? Dice: perché là ce ne sono un casino, saranno 5.000, poi vedi, ce ne sono due, vedete là. Ecco, questo fatto che da un lato si prenda l'80 e dall'altro proprio si spende esattamente 100, mi fa un po', come dire, mi sembrano numeri buttati lì. Tanto è vero che un collega di ingegneria è stato intervistato, adesso non mi ricordo più se da una radio locale o dal Corriere, non mi ricordo, gli è stato chiesto quanto si spenderà in bonifica, perché c'è una parte che va bonificata, hanno trovato dei residui, non so se sia amianto o cos'altro, comunque chimicamente controproducenti, e lui ha detto: ma bisogna fare un carottaggio, bisogna sapere, perché la zona da bonificare non è assolutamente chiara. Già quello mi mette in pallone tutti i conti, no? Quindi sono conti fatti molto a braccio. Quello che capisco io è che l'università si toglie un problema, nel senso che, primo, attualmente il mercato immobiliare è fermo, è estremamente basso, no? Come livello, e quindi vendere adesso sarebbe antieconomico. Ma in realtà poi sarebbe anche criticabile, perché un'università che si mette a vendere i suoi beni ai privati, per esempio, a me non andrebbe bene, e come me penso a molti colleghi. Allora, ci tengo a dire che, diceva Alessandro, non sono stati coinvolti gli studenti, non sono stati coinvolti nessuno, non sono stati coinvolti neanche i prorettori, perché i candidati rettore sulla partita hanno fatto quasi scena muta, no? Se avete visto, c'è un articolo del Corriere a tutta pagina, dei quattro candidati su Stavecco, con tanta aria fritta per quattro, nel senso che ne stanno come me, più o meno. Perché la cosa, prima c'è stato questo memorandum of understanding abbastanza generico, firmato da Mero e da Dionigi, che dice: vogliamo fare così. È un po' un atto, come si può dire, non è ancora un contratto, è un impegno molto valido. Poi dopo invece c'è questo atto formale, che però è estremamente generico, e tra l'altro parla, appunto, come ricordava Alessandro, anche dei patti di Caprara. E allora qui io smetto di capire, perché su Stavecco un po' il rettorato si era sbilanciato, aveva parlato, mi pare che fosse 40.000 metri quadri, di cui 24.000 per le funzioni tradizionali, quindi aule, eccetera, e gli altri per funzioni a favore degli studenti, quindi aule, zone di aule di lettura, stanze, forse mensa, sperabilmente, eccetera. Ora, una prima considerazione è che ci sono due modelli di università. C'è il modello dell'università in Italia, dico, nel senso che altrove non è così. Le università americane sono tutte campus, no? Noi invece abbiamo una storia diversa. Abbiamo delle università molto antiche che quindi sono strettamente intessute nella vita cittadina. Addirittura abbiamo situazioni paradossali, per dirvi, io mi sono trovato a un convegno a Urbino e era a cavallo di vacanze, quindi ho vissuto due giorni con l'università aperta e due giorni con l'università chiusa. Ed è un paradosso perché è una città, è un paese che ha 15.000 studenti e 5.000 abitanti, quindi quando è chiusa l'università sembra di essere nel deserto, no? Non c'è più, ci sono. Ecco, Bologna è una via di mezzo, no? Roma e Milano sono la metropoli, nel senso che l'università sia aperta o chiusa, non cambia niente, c'è casino comunque. Bologna ha un coinvolgimento di circa un quarto della popolazione, perché sono 400.000 abitanti, se contate studenti, professori, non docenti, più tutto l'indotto, perché tutti i falegnami, gli idraulici, tutti i fornitori, quelli che portano l'acqua, i minerali e così via, insomma, con lo spannometro diciamo che un quarto della popolazione è coinvolto, e qui apro una parentesi non banale dal punto di vista politico, e cioè, come abbiamo più volte scritto nei nostri documenti, noi come docenti preoccupati, penso che lo rifaremo come intersindacale, questa è una partita che non solo sarebbe un dovere discutere all'interno, ma come è stato detto già anche da Alessandro, con tutta la città. Cioè, qui stiamo cambiando Bologna per 20 anni, come minimo. L'altro, ecco, allora stavo dicendo, ecco, ci sono queste università innervate nel tessuto cittadino, come Urbino, ma come le antiche università, sappiamo tutti quali sono. Bologna è così, tanto è vero che la sede adesso è via Zamboni, la sede di Perno, no? Quindi a 100 metri dalle due torri, la sede precedente era il disagio, era Piazza Maggiore. Non so se voi lo sapete, ma quelle specie di abbaino alla bolognese che c'è in Piazza Maggiore, cioè tutti quei posti che voi vedete, se mettete alle spalle all'orologio e guardate là, no? Ci sono queste belle mansardine elevate, quelli erano gli studi dei professori, infatti spero sempre di tornare indietro nel tempo, che me ne diano una che ti saluta, no? Ecco, è per dire quanto era centrale l'università a Bologna. Ora, il modello Staveco è un modello molto diverso, ma è anche un modello interessante urbanisticamente, perché se adesso disegnassimo la pianta di Bologna, a Staveco è a sud, attaccata ai colli, dove la città non si espande, no? Bologna è cresciuta progressivamente dalla parte opposta, dalla parte della Bolognina, dove c'è la pianura, verso Milano, verso nord. E lì non si espande perché è zona residenziale, tutelata, e anche perché oggettivamente lì poi comincia la collina. Quindi è un posto estremamente gradevole. Mi lascia un po' perplesso però che questi posti comincino a diventare tanti, perché tutte le volte, allora, il comune di Bologna ha avuto degli alti e bassi, è un comune ricco tendenzialmente, ha avuto momenti di grande ricchezza, poi ha avuto dei momenti invece di relativa difficoltà e, per esempio, come l'ho vissuta io, il lazaretto è stato un piacere che l'università ha fatto al comune, nel senso che il comune non sapeva come realizzare, aveva bisogno di una decina di miliardi pagando di lire, ma siccome all'allora rettore crescevano invece, nel senso che anche l'Università di Bologna è piuttosto ricca, no? Anzi, è sicuramente la più ricca d'Italia, tanto per darvi un'idea, il bilancio complessivo dell'Università di Bologna è 750 milioni, quindi tira verso il miliardo di euro, che non è poco, credo che sia la più ricca università d'Italia. Tra l'altro con un patrimonio immobiliare enorme, perché tenete presente che tutti i Sant'Orsola, no? Tenete presente quanto è grande Sant'Orsola, è università. Ecco, sul piatto della bilancia a quello che si sa, il rettore ha messo Palazzo di Statistica, quindi il retro di Piazza Scaravilli, i palazzi vari del Dipartimento di Informatica, quelli non sono di preso oggettivamente, parlo dal punto di vista proprio brutalmente non solo del valore intrinseco ma anche del valore artistico, no? Dell'oggetto, probabilmente quindi anche le Ercolani, no? E vabbè, queste cose mi preoccupano il giusto. Statistica sì e no, nel senso che è il retto di Scaravilli, quindi si tratta di stabilire se vogliamo abbandonare questa centralità di via Zamboni o no, anche perché se ne sono dette tante, e a un certo punto si è detto alla Staveco si va tutta l'area umanistica, che è parecchia roba, nel senso che parliamo di 15-20 mila anime dal punto di vista della... Poi però si è detto no, invece riuniamo quelli che sono sparsi come quelli, come gli informatici, come quelli che adesso sono, quelli del DAM, sono un pezzo in barberia, un pezzo qua, un pezzo là. Ora, va bene tutto, ma bisognerebbe parlarne, bisognerebbe capire, insomma. Poi, l'altro aspetto è che cominciamo ad avere il Lazzaretto, il Navile, abbiamo Zano, abbiamo l'azienda grave a Granarolo, ecco, avremo domani Staveco e poi anche i prati di Caprara. Allora a questo punto non è più due sedi o tre, diventano 7-8, no? Diventa un casino, diventa, come dire, la prima cosa che io porrei come condizione per ragionare sarebbe un sistema di trasporti congruente a questa situazione, nel senso che 100.000 persone che si muovono fra studenti, professori, eccetera, non possono tutti quanti andarsi a incasinare con i trasporti che abbiamo adesso e con i costi che abbiamo adesso, con i tempi che abbiamo adesso, no? Voglio dire, una cosa del genere va urbanisticamente progettata, per esempio con delle navette dell'università che ti fanno il giro dei poli continuamente, per dirne una. Tutte cose fattibili, ma di cui nessuno parla perché appunto sono nelle segrete stampe, nel senso che finora è passata, che io sappia, una delibera prima in Senato, poi in Consiglio di Amministrazione, che dà genericamente mandato di andare avanti, ma come puoi andare avanti, cioè quali contenuti di preciso? Quindi in conclusione, come dire, io credo, spero proprio che, e abbiamo cercato di fare impegnare i candidati elettori, che voi sapete sono adesso in campagna elettorale, no? A prendere un impegno esplicito su questo, e spero proprio che si apra un dibattito con una serie di ragionamenti su tutte le componenti coinvolte e anche con la città, perché nel senso che questo cambia i flussi commerciali, cambia i flussi di traffico, cambia la densità abitativa, no? Voi sapete bene che insomma, noi abbiamo una percentuale di fuorisede enorme, quindi è gente che poi va a cercare casa, deve abitarci, no? Ecco, non so se ho fatto più confusione, ma non è colpa mia, nel senso che quello che si sa è questo, no? E aggiungerei che molto è lasciato in mente dei, nel senso che Dionigi ha detto che gli altri 20 milioni li dà la Gelmini, chi è la Giannini adesso. Ora, fra 4 anni, quando sarà da metterli fuori, lui non sarà più rettore e la Giannini non sarà più ministro, quindi non vorrei doverli mettere fuori io. No, nel senso che non si capisce bene quali garanzie. Purtroppo in un paese civile la più antica università del mondo dovrebbe fare un'operazione di questo genere in modo razionale e a spese dello Stato, non in modo dismissivo nei confronti dei privati. Io dico sempre, da quando è stato firmato il Predo Staveco e io passo nel Palazzo Malvezzi, io sento odore di banca. Volete scommettere con me? Non so se io campo abbastanza, ma voi lo vedrete. Di qui abbiamo il Creto Romagnolo, vedete che qui viene, per l'altra delle due, come si chiama? Carispo. O fanno un creditone romagnolo enorme, o perché, come volete, chi volete che lo compri, la fare del 500 che sarà valorizzato 20 milioni di euro, no? Cioè è chiaro che è un po', d'altra parte, se andate a vedere, è un po' la storia di tutto il centro storico, no? io ho un indipendente, ho visto ormai non so più, basta uscire, non ho bisogno di cercare il bancomat, se faccio così contro un muro infilo un bancomat, perché tutti i palazzi svenduti sono diventati una banca, no? Parini, via Santo Stefano. Sì, ma in compenso è stata abbandonata, io dico sempre, questa zona, non ci sono servizi, qui non c'è una farmacia, non c'è un parcheggio dei taxi, non ci passa l'autobus. Se io devo chiamare un collega da un'altra università, gli devo dire di parcheggiare in stazione e di prendere un taxi perché mi hanno chiuso persino l'accesso al parcheggio. Quindi questo l'ho detto alla Milena Naldi, alla presidente del quartiere, l'ho detto ai correttori, ai candidati rettori, eccetera. Quello che hanno fatto è una follia, non perché io sia contrario alla pedonalizzazione, ma perché è una pedonalizzazione fatta al campo di cane, se mi permettete il francesismo. Perché pensate solo questo, abbiamo la zona, vuoi limitare il traffico nella U, la via Belle Arti, se tu mettevi la telecamera all'angolo di Belle Arti con Bertoloni, l'università rimaneva esclusa, ok? Tutti i parcheggi, il parcheggio di Scaravigli, i parcheggi 3 di Lettere, quello di Scienze Politiche, eccetera. Avendo fatto così, costringono circa 2.000 coglioni a prendere un permesso, gli impiegati del comune a dare permesso, i segretari e i tecnici a tenere dietro l'elenco dei professori che hanno il permesso, quelli che non ce l'hanno e così via. Tutto un casino inutile e se io fossi stato il rettore non l'avrei tollerato, nel senso che pedonalizzi Zamboni e mi chiudi io, quello è un parcheggio privato, cioè se andate a vedere da via Belle Arti, sito proprietà privata, allora siamo un paese capitalista, viva Dio, quelle poche volte che la cosa viene a favore mio, fammela usare, tu mi chiudi l'accesso da una parte, poi mi chiudi l'accesso dall'altra, per cui ci vuole un permesso speciale e non c'entra neanche un residente, è come dire, è come un fondo incluso, cioè sono circondati dagli appas, come cosa là, no, erano di su, come sta. Vabbè. Non so, la domanda qual era, Veronica? Cosa? Sono stato promosso? No, perché sì, ho perso no, il filo. No, in realtà nel senso che ho cercato di dire quello che so io. Entrambi poi in realtà avete risposto, sì, non male. Ecco, io penso che la cosa più sensata sia di pretendere processi trasparenti. Non dico che non sia un'opportunità, in linea di principio potrebbe anche esserlo. Pratica Praia li vedo già meno, ma questo forse è un mio difetto da vecchio bolognese, perché cioè, da noi il Pratica Praia era come dire, non direi delle parole, insomma a buco là, insomma. E, mentre invece Staveco è una zona di alto pregio, è una bella differenza, no? Tra le due scelte. Non so quanto Staveco possa sfogare l'università, ma non mi pare che sia... ci sia un problema di spazio così, come dire, per esempio da noi, dopo che è andato via Magistero, è stato abolito e diventato il centro della formazione, è andato in Filippo Re, noi abbiamo dei piani vuoti, abbiamo anche perché, come sapete, qui c'è il blocco del turnover, non si assume nessuno, e c'è un'uscita, c'è un'età media dei professori che è oltre 60 anni, quindi tutti gli anni se ne vanno in percentuale del 10-15%, quindi si aprono sempre più spazi, ovviamente, si sta depauperando l'università. Senza considerare gli spazi vuoti del patrimonio universitario. Se voi andate a vedere, adesso io, al 34, dove c'era Magistero una volta, nell'ala di destra, pigliando l'ascensore andando su, io trovo piani vuoti. Da noi, ma poi lo vedo, il nostro era un dipartimento di 65 persone, entro due anni vanno in pensione 15 persone, cioè siamo tutti vecchi, non c'è poco da fare, io ci starei anche a tornare giovane, e non c'è ricambio, nel senso che forse ci ridanno finalmente quest'altro anno la possibilità di assumere tanto quanto, però intanto abbiamo perso un 20%, quindi quel 30% di precariato rimarrà lì chissà per quanto tempo, se non cambiano le regole del gioco. C'è qualche domanda? Beh, per esempio, io adesso non lo so, mi metto nei panni, io so che voi a volte rivendicate migliori condizioni per i trasporti, perché non cominciare a chiedere che tutte queste sedi siano collegate direttamente e gratuitamente? Lo trovo il minimo sindacale, no? Nel senso che se io ho dei servizi di qua, dei servizi di là, dei servizi, voglio dire, è una questione di tempo e di denaro. Cosa dite voi? Facciamo un servizio radio su questo. E voi ne avete già fatti. L'avete più alto, no? Mm? Diciamo che magari è nuovo, c'è un esempio strutturale del progetto, del discorso degli spostamenti a pezzi sociali o garantiti o grandi, da un punto di vista dialettico può spingere a cambiare l'infrastruttura, però da un punto di vista dialettico strutturale non toglie niente. Perché se c'è un progetto sbagliato posso anche prendere 1000 euro, solo prendere 1000 euro a testa, personale dell'università, come giustamente ha specificato lei, perché io ci ha detto tutti. Come ha specificato giustamente, non è una cosa che guarda solo il studente, cioè non è una lotta che vuole restringere il servizio di studenti, non lo è, non lo è. Però diciamo che il discorso dei trasporti potrebbe, cioè di una vera eventuale indicazione sui trasporti o su tutto quello che può girare all'università, alle nuove sedi dell'università, diciamo che è logicamente subordinato a un'accettazione del modello studentesco. Su questo concetto semplicemente di impiegare per attutire il corpo, però probabilmente come strategia anche di contrasto, no? A tutta l'operazione probabilmente è un po' fuorviante, oltre che Sì, no, ma infatti, ma se non si sa neanche di cosa, chi ci deve andare a fare là, è anche molto diverso. Le esigenze delle varie discipline non sono uguali, no? Io non posso portare agraria sotto le due torri, perché c'è bisogno dell'azienda agricola, no? o tutte quelle che hanno i laboratori, per esempio, portano via spazio, hanno bisogno di ambienti dedicati in un certo modo, quindi prima di tutto ci vuole un modello, cioè che uno sappia chi ci deve andare e quali benefici si traggono a riunire certe cose. Ecco, un altro palazzo d'epoca che forse fa una brutta fine è quello di Via Barberia, che è nel mazzo di quelli che... Sì. Filmografia, eccetera, arte, spettacolo. Va bene. Se non ci sono domande, chiuderei qui. Ci sciogliamo. Ringraziamo il professore. Grazie a voi. Alessandro per essere venuti. Poi comunque io dico, riaggiorniamoci, perché visto che sì, è tutto così fumoso, continuiamo un po' da capire come va avanti, anche tenendoci in contatto con la Giago, che magari ci può dare anche delle informazioni. È importante parlarne anche sì, costituire un osservatorio sullo Stabecco. Sì, esatto. E magari fare. Perché no? Sì. Va bene. Grazie a voi. Ciao, grazie.